Eccala. Eccoci pronti per un'altra avventura da vivere assieme. Buona giornata, buongiorno. Dalla voce dell'Ariele, ancora nella penombra milanese, un piacere intravedere nell'oscurità anche il nostro regista Spadino. Tra pochi minuti arriverà a tenerci compagnia anche il maestro Roberto Fricantoni. Questa è Rock FM, venerdì 18 gennaio 2008, l'anno della svolta. Andiamo di sigla, la nostra colazione, la colazione rock, pane, burro e rock and roll, puntata 164. Pane, burro e rock and roll. Chissà fin quando resistiamo, Spadino. La tua colazione rock, la migliore in circolazione. Pane, burro e rock and roll. Spargete la voce dalle 7 alle 9, non si ascolta altro. Ok? Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Oggi più che mai, essendo venerdì, via, l'ultimo sforzo, poi ci si tuffa nel weekend di bagordi. Spadino, mi raccomando, oggi bisogna fare attenzione, perché ormai abbiamo preso l'abitudine il venerdì di spingere un po' più sull'acceleratore, visto che c'è l'apice d'ascolto. Ciao, siete sempre di più il venerdì, in realtà ogni giorno siete sempre di più, si può dire, o ci incensiamo troppo. Sarà una puntata bella ricca anche quest'oggi, è da parecchi giorni che lo sto ricordando, soprattutto agli amici delle altre mezz'ore, a voi della prima forse non ve l'ho mai detto, ma quest'oggi è segnato il ritorno della premiata rubrica Ascoltiamo i Led Zeppelin con il Kazoo. È una settimana che io, Frick e il nostro Isaac Rizzi ci stiamo allenando con tre Kazoo per rivisitare il repertorio dei Led Zeppelin. Il tutto però accadrà nell'ultimo blocco di questa puntata, quindi tra le 8:30 e le 9. Vi ricordo in ogni caso, amici della diretta, che potete anche riascoltare quello che accade, quello che vi perdete di pane, burro e rock and roll su radiorockfm.com. Sono i radioascoltatori che ci ascoltano in fuorisincro, che approfitto per salutare così già nella prima mezz'ora, nel caso fossero sintonizzati. Quindi se ve lo perdete, mi raccomando, poi andate a riascoltarvelo. Bando alle ciance e alle quisquiglie, diamo inizio ufficiale a questa puntata 164. Nothing. vediamo per quanto è possibile di fare un po' d'ordine all'interno di Pane, Burro, Rock and Roll, che sì, è un parolone tentare di fare ordine all'interno di Pane, Burro, Rock and Roll. Vi ho già accennato che affronteremo la rubrica Le Zeppelin con il Casù, ma un altro degli appuntamenti che dobbiamo assolutamente riprendere oggi è il sondaggio lanciato in settimana dall'amico Andre Patentato 147. Vi ricordo le coordinate per interagire con Pane, Burro e Rock and Roll. Il numero di SMS è 335 100 7777. Vi servirà anche quest'oggi, soprattutto a voi impiegati, a voi colletti bianchi, per confessare il vostro desktop rock. In tanti in questi giorni mi hanno scritto a dire: cos'è il desktop? Dai, adesso non fatemi credere che c'è qualcuno messo peggio di me. Lo sfondo del vostro computer, no? Quello che c'è sotto quando lo accendete, lo sappiamo. Voi che vi presentate in ufficio in giacca e cravatta, poi vi andiamo a tanare e scopriamo, grazie alle vostre segnalazioni, che tipi di desktop avete. Ne ho una marea già segnalate in queste puntate, altri se ne aggiungeranno oggi, quindi provo a portarmi avanti così a inizio trasmissione. Vado a salutare al volo Alex, che confessava una foto degli Slayer durante un live. Qui abbiamo un colletto bianco e rock nei suoi CD e in automobile, ma soprattutto quando rutto e scorreggio con la cravatta. Un abbraccio caloroso a Emiliano da Forlì, che quindi non ha il desktop, però si comporta decisamente bene. Gettonatissimi i Kiss, che appaiono anche nel desktop di Stefano da Milano. Formazione dei Kiss al completo, assieme a una ventina di conigliette di Playboy, tutte ignude e con la faccia pittata come loro. Hai capito? Ce n'è tanti. Andiamo a salutare un altro colletto bianco, con faccia da angelo ma spirito da demone roccheggiato. Questo è il Vonku, che segnalava ancora invece suonerie del cellulare, ovvero Same Old Situation dei Motley Crue. Siete in tanti, ragazzi, a fare queste segnalazioni. Andiamo con un'ultima, se la trovo. Il mio desktop, eccola qua, la nuova moto che ritirerò a febbraio, Harley Davidson FX STB Night Train, lo screensaver, più di 1000 foto di maiale che si alternano. Complimentoni, caro amico, che hai avuto il buon cuore, tra l'altro, di non firmarti, Spadino. Ecco, bravo, mi hai capito. Proseguiamo. Yearning inside me, and it's running deeper than the night. So don't go fooling with my hunger. If you can't keep me satisfied, I'm warning you. Gotta have more love, I just can't get enough. Gotta have more love, I just can't get enough. Stronger than the wind, so don't go fooling with my fire, 'cause you won't stop me once I begin. I'm warning you, gotta have more love, I just can't get enough. Gotta have more love, I just can't get enough. Gotta have more love, I just can't get enough. Thank you. rosicchiando minuti, anzi prima, secondi, minuti su minuti, ore su ore. Siamo finalmente arrivati al venerdì. È andata! È passata la settimana, abbiamo due giorni di festa. Speriamo, insomma, ci proviamo. Tra l'altro ci siamo... fine settimana da godere. Ci siamo scampati un venerdì 17, proprio così, sul filo del rasoio. Sul filo. Buon 18! Per un pelo, evviva il 18! Maestro Roberto Fricantoni, dia il buongiorno! Buongiorno a tutti i radioascoltatori, alle radioascoltatrici, anche ai radioascoltatori, ma soprattutto alle radioascoltatrici. Che fine dicitore! Anche radioascoltatori, ma soprattutto radioascoltatrici, dicevo, di pane, burro e rock and roll, la vostra trasmissione del risveglio. Che serve a quest'ora della giornata all'almanacco del giorno che fu. Esatto, caldo, esatto, caldo. Vogliamo appiccicare alla nostra trasmissione questa etichetta, la trasmissione, di questo sottotitolo, la trasmissione del risveglio, le Beh, piace? Perché no, sì, il risveglio, insomma. Risveglio muscolare, risveglio spirituale. Tonico, risveglio spirituale, risveglio dal coma, bello, mi piace. Io pane, burro sull'almanacco. Sì, lo dico solo l'almanacco del risveglio. L'almanacco di... Ah, bellissimo. Allora lo dico, posso dirlo con l'enfasi. Vada. Vogliate ascoltare l'almanacco del risveglio. Era il 18 gennaio del 1778 quando James Cook scopre le isole Hawaii, alle quali darà il nome di isole Sandwich. Ai. Mike Buongiorno non dice mai stronzate. Il nostro a volte gli scappa. Anche all'altro, tra l'altro. Le isole Hawaii. E Sandwich come mai? Per il panino? Sandwich, no, per la posizione sessuale inventata su quelle isole. È una personale rielaborazione del capitano James Cook, che leggeva, era un accanito lettore del Kama Sutra. Scusi, ho perso l'intonazione. Andiamo con la di prossima Mike. Notizia, per favore, legga qua. 1896, 18 gennaio, vada. Viene mostrata la prima macchina a raggi per... No, per X. Che cosa? Perché cosa? Allora qui una tiratina d'orecchia alla redazione, che non termina, finisce le parole. Raggi X, punto, non raggi per, l'ha letta male, va bene. 1900, torni Fricantoni, la prego, 75, 18 gennaio, la sitcom I Jefferson debutta sulla CBS, che belle sigle, me le ricordo tutte. Lei sa che cominciai proprio intervistando i Jefferson alla CBS. Lei è uno psicopatico, se ne è mai accorto. Assolutamente. Era lontano 1970 quando io mi feci strada intervistando tutta la troupe dei Jefferson, cameriera compresa. Va bene, chiudiamo però con una brutta notizia del 77, 18 gennaio. Ricordiamo il calciatore della Lazio, Luciano Rececconi, che vittima di un suo stesso scherzo morì a Roma. Aveva finto di rapinare una gioielleria di un amico, ma quest'ultimo, non riconoscendo, reagì sparando. Sì, lo stesso amico pare abbia dichiarato: lo avessi riconosciuto, gli avrei sparato due volte. Per lei è cinico, Nel senso buono del termine. Chiusura cinica. Chiusura cinica, ma efficace, speriamo. Thank you. you to be with me. La grande musica di Rock FM a tenerci compagnia anche stamane all'interno di Pane, Burro e Rock and Roll. Torno velocemente ai desktop del vostro ufficio, il fil rouge che ci porteremo avanti in questa giornata di Pane, Burro e Rock and Roll, in attesa poi di rendere conto ad Andrea Patentato 147, colui che ha scaricato, che ha scatenato l'inferno delle vostre segnalazioni. Ho letto qualche minuto fa di un amico con Harley Davidson e maiale a rotazioni, non si era firmato, si è firmato Enrico Patentato, tra l'altro 708, complimenti e grazie mille della segnalazione. Tantissime continuano a fioccare come desktop in azienda, ho la foto mia e di Ricci Kotzen, Samuele da Firenze. Molte sono le segnalazioni di fotografie vostre abbracciate ai vostri beniamini, complimenti. Un altro saluto a Uzi, al lavoro ho messo la copertina di Use Your Illusion 2, gigante, sobria tutto sommato, no? Beh, abbastanza classica come copertina. Il salvaschermo di Fabrizio di Milano invece recita: non mi avrete mai, come volete voi, a caratteri cupidali, con citazione 99 posse. Un altro sms anonimo recita soltanto: desktop, logo dei Motorhead. Bravo, complimentoni amico metallaro. Io sul desktop del mio PC in ufficio ho la foto del concerto dei Led Zeppelin 2002, dei Led Zeppelin febbraio Arena 2007, io c'ero, eccolo, Francis, uno che ci fa venire la carognetta che è andato a vedere i Led Zeppelin e noi no, complimenti, potresti farla girare la foto. Qui ne abbiamo un altro, troneggia l'immagine del boss, foto dell'ultimo fantastico concerto di Milano, non è firmato. Il mio desktop ha il simbolo di V per Vendetta, molto rock rivoluzionario, Alter da Milano. Un saluto anche a quest'altro amico, desktop aziendale, auto, le foto di mogli, bambini e animali hanno rotto, complimenti, viva le automobili. Allora, qui abbiamo un altro, Mauro da Zena, ho la gradinata nord del Genoa, perché è rock, con tutte le sfighe che abbiamo avuto, ma ora ci stiamo gustando la rivincita. E allora un saluto anche a Mauro, concludo con Eddie degli Iron Maiden in versione The Trooper, ce la segnala Giulia da Livorno, solo che brandisce un coltello tipo Opinel su una mano e la bandiera degli Scout nell'altra. Spero di riuscire a stamparlo e appenderlo in sede Scout, visto che i bimbi sono tutte rocker in erba. Abbiamo trovato una Scout all'ascolto, complimenti, allora è a lei che andrò a dedicare il prossimo brano. Vai Spadino! E me, che c'è? pane, burro e marmellata, inizia la giornata. Ma se ci aggiungi rock and roll, diventa una figata.